Grundsatzforderungen. Die Bischöfe haben diese Tendenzen klar gesehen. Wenn sie dennoch vor Wahlen in Hirtenbriefen für christliche Politik und christliche Politiker warben, dann wollten sie der Partei zur Mehrheit verhelfen, die sich häufig als einzige für die Durchsetzung ihrer Forderungen verwandte. Eine Identifikation mit allen politischen Zielen der christlichen Demokraten bedeuteten diese Aufrufe nicht. Wahrten die Bischöfe selbst durchaus Distanz zur CDU, so förderten ihre Aufrufe bei den Katholiken, die sich in ihrer politischen Stellungnahme vornehmlich von religiös-weltanschaulichen Beweggründen leiten ließen, eine unkritische Haltung gegenüber dieser Partei. Die bischöflichen Verlautbarungen und das oft vorbehaltlose Eintreten zahlreicher Laien für die christlichen Demokraten, das sich nicht zuletzt in einem über zwei Jahrzehnte beeindruckend stabilen Abstimmungsverhalten der bekenntnistreuen Katholiken zugunsten der CDU äußerten, ließen bei weiten Bevölkerungskreisen den Eindruck einer unerschütterlichen Allianz zwischen Kirche und Partei aufkommen. Die Gefahr, die diese Tendenz für die Glaubwürdigkeit der Kirche beschwor, ist von den Bischöfen zwar gesehen worden, Versuche, die Trennungslinien zur CDU schärfer zu ziehen, mussten aber so lange erfolglos bleiben, wie sich parteipolitisch keine Alternative bot. Vieles von dem, was die Kirche nach dem Krieg als für einen Neuanfang unabdingbar bezeichnet hatte, ist in der Zeit von 1945 bis 1950 verwirklicht worden. Die Grundrechte waren verfassungsmäßig gesichert, die politische Ordnung bot Schutz vor Willkür, die sich allmählich entfaltende Wirtschaft gehorchte nicht mehr allein den Gesetzen des Marktes, sondern war sozial gebunden und den Glaubensgemeinschaften war die Möglichkeit zur freien Entfaltung gegeben. Ist aber das eigentliche Anliegen der Kirche die Verchristlichung des Lebens erfüllt worden? Die Bischöfe selbst haben diese Frage im Jahr 1950 negativ beantwortet. In einem Hirtenwort vom 1. März 1950, das sich mit dem Materialismus auseinandersetzte, konstatierten sie, dass eine wirkliche Rückkehr zu Gott ausgeblieben sei. Es war eine zutreffende Analyse der geistigen Haltung weiter Teile der Bevölkerung und zugleich eine Vorwegnahme gesellschaftskritischer Ansätze, die in der Bundesrepublik in den 60er Jahren aufgekommen sind, wenn sie fortfuhren. Ob wir nach Westen oder Osten schauen, überall zeigt sich heute ein praktischer Materialismus, der das wirtschaftliche Fortkommen und den Lebensgenuss zum einzigen Lebensinhalt macht, weder Wahrheit noch nach Recht fragt, sich über die Herrenrechte Gottes und die Stimme des Gewissens hinwegsetzt und den heutigen Massenmenschen dazu verleitet, einfach darauf loszuleben und sich auszuleben. Ich danke Ihnen. Poi nella seconda metà. Ecco, e mi è basta di capire che Monticone pone il problema, il concetto di civiltà cristiana, romanità cristianesima, proprio il concetto di civiltà cristiana, riscoprendo dal tempo. De Gasperi, per così dire, amplia, ma non sviluppa la propria concezione di civiltà cristiana, un concetto politico evidentemente, sulla base, se non ho capito male, di quanto affermava Maritello, questo documento che è presentato io, come dicevo esattamente. Ma questo secondo me è giusto, però io credo che questo faccia parte di un ripensamento dell'intera cultura europea e soprattutto in particolare della cultura italiana, che della cultura liberale, croce. Io sono rimasto un po' così questa mattina, attendevo che il professor Monticone si riferisse alla storia d'Europa, attendevo che il professor Monticone ci si riferisse al perché non possiamo nutrirci cristiani, attendevo cioè che il professor Monticone rimeditasse l'esperienza culturale di De Gasperi all'insegna proprio di quella riscoperta dei valori della libertà, croce dirà poi la religione della libertà, è vero nella storia di quello che si riformazione, ma dico, io attendevo cioè che il professor Monticone, che ha colto acutamente il problema, non lo caricasse, se così posso dire, non lo relazionasse al problema del marxismo o al problema del comunismo, sebbene all'atteggiamento che l'intera cultura liberale nel tempo, e non c'è solo Cruci, Michele di Unamuno, Ortega, Cruci e sotto certi aspetti aspetti, anche tutti o altri, c'è un ripensamento della cultura liberale sugli errori, e un ripensamento che avviene proprio sulla base dell'esperienza dello Stato totalitario, del totalitarismo. Naturalmente, questo io devo essere preciso, credo che anche Maintain vada inserito in questo tipo di questa tempesta culturale spirituale. Non che Maritain sia un liberale, intendiamoci che non ci mancherebbe. Voglio dire, il problema della libertà, la riflessione sul problema della libertà che trova negli intellettuali laici e intellettuali cattolici un approfondimento di gran lunga, non sempre il collega Montigoni, di gran lunga più pertinente, più drammatico perfino, che non negli intellettuali, chiamiamo marxisti, anche negli intellettuali socialisti. Dobbiamo arrivare, certo, a certi aspetti di giustizia ambientale, o serio, per quanto riguarda gli italiani, ma è già, noi siamo su un campo diverso, siamo più su un campo di militanza politica, di formazione politica, eccetera. Direi che da questo punto di vista, accogliendo il disegno molto acuto che faceva Montigone di questo maturare del pensiero politico della visione, e ancora, di De Gasperi, io penso che questo filone sia importante, sia fondamentale, un filone della riscoperta, se così possiamo dire, della ridefinizione del concetto di libertà, che poi finisce per essere il concetto di libertà politica, cioè è croce con il cristianesimo, la storia europea della croce cittadina. E qui vorrei concludere chiedendo appunto su questa base a Montigone una questione. Cioè, da questo punto di vista, Maritain in quegli anni viene letto non soltanto da De Gasperi, evidentemente, viene letto appunto anche da altri cattolici, dalla Fucci. Ecco, come lui collega, se c'è un collegamento Maritain di De Gasperi al Maritain di Vieni Scoperti, direi soltanto una cosa: non a caso tu non parli di lui, del personalismo cristiano di lui, ti riferisci a parlare evidentemente di Maritain. Credo che non sia casuale questa scelta, perché ecco, comuni già siamo su un versante più populistico, su un versante un po' diverso, ecco, un po' più torbido a mio giudizio, che non su un po' mai tempo. Allora, ringrazio per questo chiarimento, questa storia. Aliberti hat zunächst einmal im Prinzip den Ansatz von Herrn Montigone, der den Versuch macht, De Gasperi nicht zu aktualisieren, sondern in seinem historischen Umkreis geistesgeschichtlich auszudrücken und zu verstehen, im Prinzip begrüßt. Er meint zweitens, dass aber gerade wenn man De Gasperis geistige Wendung in die 30er Jahre verlegt, die Conversione Conturale, dass man sich dann darüber klar sein müsse, dass gerade die 30er Jahre für die italienische Forschung, für die italienische Geistesgeschichte noch weitgehend unerforschtes Terrain seien, von dem er selbst sagt, meint oder fragt, ob es nicht vielleicht lebendiger gewesen sei als die 40er Jahre, die so im Vordergrund der Diskussion stehen, und sagt dann, ihn habe auf der einen Seite beeindruckt und auf der anderen Seite erstaunt, dass manche Dinge, manche Namen, manche Zusammenhänge überhaupt nicht vorgekommen seien. Zum Beispiel der Name Croce sei nie gefallen. Also dass eine Auseinandersetzung De Gasperis oder ein Hineinnehmen oder ein Auseinandersetzen De Gasperis mit dem gesamten liberalen Italien habe gefehlt. Ebenso auch zum Beispiel der Name Mounier sei nicht vorgekommen. Es gehe auch darum, noch festzustellen, was ist denn, was eigentlich De Gasperi von denen unterscheidet, die in der Federazione Universitaria Cattolica Italiana, also den Fuji, der italienischen Studenten, katholischen Studentenbewegung, damals jung waren und später dann die neue Generation gegenüber den Alten bildeten. Bitte schön, Herr Montigone, Sie können von da aus gleich sprechen. Croce als... Nein, ja. Molto brevemente. Sì, molto brevemente, perché ringrazio Mito Alberti delle sue osservazioni, mi sembrano molto pertinenti, soprattutto questa la mancanza nella mia presentazione di un raffronto con la cultura liberale, no? sulla questione di una scelta di De Gasperi diversa e non soltanto contro il comunismo, non tornerei a dire semplicemente che lo scontro che egli ha operato non era uno scontro a priori ma in approdo, no? In un certo senso, se vogliamo ancora aggiungere qualche elemento, comunque rifletterò ancora sulla pericolosità di simili determinazioni, di simili forme. Quando riguardo alla cultura liberale, accetto volentieri quello che Liberti dice, direi tuttavia che intanto c'è una grossa recensione di De Gasperi a Croce, che viene poi ristampata e ancora, quindi è diventato un momento certamente di riflessione. Però mi pare che più che il liberalismo, quindi la elaborazione liberale, De Gasperi abbia solo colto l'aspetto dell'idea della libertà, no? E abbia incontrato questa cultura liberale semmai in arrivo dopo, un po' più tardi, no? Cioè quando questa cultura liberale si è poi tradotta in un più profondo e largo dibattito nel trapasso da 43 immediatamente in poi. Direi che c'è stato semmai appunto una certa convergenza sul tema della libertà, ma non una vicinanza di mentalità degli anni 30. Forse sul velo dell'Europa. Come? E forse sul velo dell'Europa. Finale della storia d'Europa, sì, sì, sì, sì, la visione della nuova patria europea, sì, questo, sì, è sì, questo senza dubbio. Scusa. No, chiedo scusa. No, perché qui si stanno di un mondo, certo, anche De Gasperi cita Ortega in modo particolare, ma la mentalità mi pare un po' diversa nel modo di avvicinarsi, anche in quel letto. E poi forse erano anche unità. No? Terzo, la ritengo viene letto dalla Fucci. Ecco, a me pare che sia stato sopravvalutato dagli storici del movimento cattolico la lettura di Maritain fatta nell'ambiente della Fucci, del movimento laureato, prima del periodo prima del 43. No? Cioè, in fondo la grossa scoperta di Maritain nel movimento cattolico avviene con la traduzione italiana del Comunismo Integrale, no? Mentre le pochissime traduzioni italiane del periodo precedente sono veramente di una elite anche nell'ambito degli universitari cattolici e del movimento laureato. E qui vorrei dire, riferendomi a quanto ha detto Maggiotta prima, circa la molteplicità degli esiti di questi gruppi di intellettuali, chiamiamoli da un po', no? Che avevano eventualmente letto Maritain o qualche cosa di simile, dei gruppi francesi, ma anche personalmente Maritain. Ecco, mi pare che questa molteplicità però io la restringerei un pochino. Ho l'impressione che fosse veramente una piccola minoranza di intellettuali, i quali non rappresentavano il mondo cattolico agli occhi del Vaticano, ecco, no? Comunque questo sarà eventualmente un punto da riferire alla discussione. Io riprenderei l'esperienza della Fucci per riguardo di Maritain negli anni 30, molto, no? Negli anni 30? 30, sì, negli anni in cui appunto De Gasperi lo è. Und die Grunde antwortet auf die beiden Dinge. Jawohl, das liberale Italien war ausgespart. Hier gibt es zwar Konvergenzen, aber wenig Annäherungen eigentlich. Und sie liegen eigentlich in der Zeit nach 43 als vor 43 aufgrund der ganzen biografischen Herkunft de Gasperis. Der zweite Punkt, er meint, Maritain wird für breitere Intellektuellen und Studenten und Akademikerkreise in Italien erst nach 1943 aktuell. Die wenigen Übersetzungen kleinerer Schriften Maritains, die vor 1943 in Italien gewesen seien, haben nicht die italienischen Akademiker oder die italienischen katholischen Studenten und katholischen Akademiker, sondern nur eine kleine Elite dort erreicht. So, die nächste Wortmeldung ist von Herrn, die ich noch haben war, von Herrn Milanesi. Noch nicht, oh, benissimo. Dann kommt Herr Benichol. E poi noch. Dobbiamo dichiarare il mio trattamento per quello che ha detto Maggiotta e ascoltando questa sua accurata valorizzazione e interpretazione di me dei documenti, dimensione della storiografia contemporanea. Cioè, Matteotta ricostruisce questi avvenimenti sulla base di documenti e giovani. Io questi documenti, questi avvenimenti li ho messo in pieno, queste persone, queste situazioni. E devo dire che la integrazione c'è, nel senso però di qualche mitigazione e di qualche determinazione. Ad esempio, ho nominato Prometto. Prometto era una figura, è stata una figura tipica degli anni dal 35 a quando è morto, vero? Ora, Prometto ha tirato nel suo ambito Vanoni e tutto il gruppo di Vanoni, cioè un gruppo di socialisti del socialismo non marxista ma umanitario, che tanto, e le relazioni di Prometto con De Gasperi hanno poi portato all'aggruppamento multidimensionale. Io ritengo che effettivamente gruppetti c'erano, ma non molto differenziati. Intanto c'era la difficoltà dei rapporti. Noi del nord avevamo scarsissimi rapporti col sud, sono durati perlomeno 2 anni queste difficoltà dei rapporti. E i contatti molto rari che sono venuti tra il 43 e il 45, vero, tra il movimento cattolico, abbiamo così, sono stati scarsi, e gli uomini in fondo erano meno rappresentativi dal punto di vista culturale e politico. Ho un altro rilievo che vorrei fare di condizionamento, è quello di De Luca. De Luca è una personalità estremamente significativa, che ha raggiunto il massimo notorietà perché ha conquistato la politica da prima di Giovanni XXIII, che gli ha affidato le sue memorie per l'anima, eccetera. Però De Luca era un tipo sconcertante, è stato uno dei tenaci rappresentanti dei cattolici aperti al fascismo e convinti che bisognava agire dall'interno del fascismo per conquistarlo, la cattolicesimo. De Luca però è stato molto abile, perché quando ha sentito l'aria cambiava, ha cambiato il serio, valendosi in tutte le sue amicizie nel mondo americano. Nel nord è capitato con nostra somma sorpresa con una ricca macchina americana, mentre noi pensavamo che anche De Luca avesse avuto qualche piccolo guaio di educazione, perché le vie del Signore gli passano anche attraverso l'OSS. Ora, molto più importante, mi pare che Montini ha apprezzato molto De Luca, anzi posso dire che quello che l'ha introdotto ad esempio nella casa di istituire il consulente scientifico, però a un certo punto c'è stato un distanziamento. Giuseppe De Luca sapeva valorizzare numerose relazioni sulla politica, che erano non soltanto dell'uno ma di 3-4 posizioni, anche delle posizioni di conservatrici. Comunque vorrei per dire che per quello che era affermato qui, cioè dei rapporti legati con Montini eccetera, direi che quello che De Luca può aver fatto dentro ha meno importanza. Altra rilievo che vorrei fare, è quello che riguarda l'articolo 7 del concordato. Mi ha interessato molto questa, perché non avevo mai pensato che ci fosse un problema in dire a chi ha avuto per la prima volta il pensiero. Io ricordo con precisione solo questo particolare, che Dossetti ha fatto il famoso discorso. Il Dossetti, per giustificare il concordato, ha fatto una storia del concordato tedesco non corrispondente alla realtà. Quando io glielo ho detto, mi ha risposto collettivamente, lo sapevo anch'io che era una cosa così, però non era opportuno andare a dire in Parlamento queste cose. Ritengo quindi che questo sfondo può essere legittimo, però ritengo che la questione del concordato, dell'articolo 7, sia nato da un'esigenza a un certo punto di dare una sistemazione alla fantasia, vero? che qualche sollecitazione lo stesso sia stata, nel senso di capo. Quindi ritengo che questo complesso di documenti che Margiotta ha richiamato e di cui un per primo ha notato la diversità di sicurezza di fondamento deve essere tutto presente, ma deve essere ancora completata, consultando al possibile gli uomini, e non molti, che sono sicuramente problemi. Ad esempio, io ho avuto molti contatti con Montini, con il fratello, e con Gonella, e nel nostro ambito eravamo molto vicini, mai è venuto, si è venuti su questo discorso qui del concordato, vero? Dall'articolo 7. Ecco. Quindi è un problema, però è aperto. Oh, ultima cosa, l'esplorazione degli associati che tutti abbiamo fatto con molto interesse, mi pare che dia poche indicazioni su questo argomento. Bendisoli hat vier Punkte gebracht, von denen drei wichtig sind. Er beginnt damit, im Prinzip stimmt der Herr Margiotta Broglio völlig zu, dass man von den Dokumenten her die tatsächlichen Verhältnisse zu verstehen suchen muss. Aber er sagt, ich bin in einer anderen Position, ich bin damals dabei gewesen, die beiden Montinis und Gonella und so weiter habe ich gut gekannt und ich habe auch noch persönliche Erinnerungen. Ich fasse das, was er im ersten und vierten Punkt gesagt hat, für die Übersetzung gleich zusammen. Und er sagt, er wundert sich eigentlich, er hat es nicht ganz so deutlich ausgedrückt, wie ich es jetzt für die deutschen Teilnehmer sage, aber das lag wohl dahinter. Er wundert sich, dass er selbst eigentlich von den Experten, die sich nun aufgrund der bisherigen Überlieferung um diese Dinge kümmern, kaum befragt worden ist. Und bringt dann an zwei Punkten, bringt er hier seine Erinnerung. Das eine ist Giuseppe De Luca, ein enger Vertrauter, jemand, den jedenfalls Johannes der 23. seine Memoiren anvertraut hat, der auch bis zu einem gewissen Punkt mit Paul dem VI. Sehr gut sich gestanden hat, wenngleich Paul der VI. Sehr genau wusste, dass De Luca nicht nur mit Paul dem VI. Vor und nachdem er Papst wurde, sprach, sondern dass De Luca sehr viele von den 100 oder 70 Prälaten, Monsignoren des Vatikans kannte. Und dann sagt Bendisoli, De Luca gehörte ja zu den Leuten, die aus allen vielen Kontakten, die sie hatten, auch sehr viel Kapital zu schlagen wusste. Ich meine das Kapital jetzt nicht im finanziellen Sinne, sondern vor allem politisch-geistiges Kapital. Er war ein außerordentlich wendiger Mensch und ebenso wie er bemerkenswert offen gegenüber dem Faschismus war, mit dem Ziel, die Katholiken sollen den Faschismus von innen her taufen oder umkrempeln oder mäßigen, wie auch immer. Ebenso gehört er dann zu denen, die außerordentlich schnell sich auf die amerikanische Seite einstellen konnten. Herr Bendisoli, der in Norditalien saß, sagte, einer der ersten, der dann schließlich aus dem Süden kam, war De Luca in einem großen amerikanischen Straßenkreuzer, zu unserer großen Überraschung, die wir ihn ja auch kannten, als er vorher gesagt hatte, man muss in den Faschismus und so weiter so hineingehen. Zu der Frage, die Herr Margiotta Broglio aufgeworfen hatte, wo ist eigentlich die Initiative für den Artikel 7 gekommen, wobei er als Problemstellung sagt, am meisten Interesse muss daran der Vatikan haben, also gehe ich davon aus, dass auch der Vatikan die eigentliche Anregung gegeben hat. Dazu eine Erinnerung, man hat ja überlegt, ob Dossetti, der ursprünglich ja Kirchenrechtler war, ob das von Dossetti kommt, und er könne sich selbst erinnern, wie Dossetti die Konkordate habe verteidigen wollen, indem er einen Abriss der Konkordatsgeschichten allgemein und des italienischen Konkordats gegeben habe, das einen relativen Nachteil hatte, weil es einfach mit den Fakten nicht übereingestimmt habe, und das habe er ihm dann erklärt, sodass diese Darstellung des Konkordates nicht als Argumentation für die Hineinnahme der Verfassungsgarantie des Gottes nicht als Argument dafür dienen konnte, dass das italienische Lateranenkonkordat und der Verfassungsgarantie gestellt wurde. Scusi. Mi permetto di aggiungere una cosa sola a giustificazione. Il mio lungo incontro con De Gasperi il 23 luglio del 43, in cui si è parlato della situazione italiana, delle condizioni della Costituzione della Repubblica, senza venire a particolare, voglio dire che questo incontro, io, che venivo dal nord, nella sede della Biblioteca Vaticana, era a caratteristica di quel sistema di contatti e di coordinazioni che giustamente Matteotta ha osservato come tattica di De Gasperi all'ombra, chiamiamolo pure, di determinate persone e nel quadro di determinate amicizie con De Gasperi, perché quando noi andavamo da Montini poi andavamo anche da De Gasperi. Ma io forse farei finire tutti i debati, poi rispondo a tutti, risparmiamo il tempo. Come vuole. Tanto io ho segnato. Io sono Vincenzo Carli, sono consistente contemporanea qua a Trento, mi presento per il primo intervento. Ma io sono immensamente grato al professor Maggiotto, un quesito che gli avevo già sottoposto in privato, adesso lo rendo pubblico. Proprio perché io credo che abbia contribuito con la sua relazione, seguendo una raccomandazione che era stata anche quella del professor Toscati all'inizio, no? Di curare la periodizzazione, di cercare di collocarci nel concreto i fatti specifici. Cioè, ha contribuito notevolmente, in maniera notevolissima, con il suo richiamo ai documenti, pare scendere dal mito De Gasperi alla storia. No? Questo quindi è un contributo, io credo, veramente anche molto stimolante. Infatti io intervengo pur come sempre, essendo un conoscitore modestissimo di De Gasperi, di quel poco che ho soprattutto la storia trentina. E io credo che però con la sua enfasi espositiva di documenti, il professor Maggiotta finisca in fondo per sostenere la tesi proposta. Prendo un esempio, cioè, secondo me è significativo. Quando parla dei momenti chiave del rapporto di C-Vaticano, prendiamo uno dei punti, quello della leadership del Gasperiano, no? Proprio perché arriva a dimostrare come l'antitesi parlato di antitetiche tesi di Bozzo e Scopo. Cioè, secondo me, lei non solo condivide quello che Andreotti risponde alla domanda sull'intervista, in pieno lo condivide, sulla questione relativa a Zelda. Zelda, appunto, Teodoro Sala appunto fa questa interpretazione della lettera di Zelda, quasi questa azione cattolica al servizio di un'ipotesi salvatoriana, cioè un discorso appunto di azione cattolica che sostituisce al fascismo come supporto della continuità dello Stato. Va bene, Andreotti risponde chiaramente che questa è un'ipotesi sbagliata e dice la verità è che si era in un periodo molto difficile, si cercava di dare una mano alla soluzione dei problemi in quel momento sul tappeto, ma lo si faceva sapendo che si era in una situazione transitoria e che si trattava con un governo assolutamente provvisorio. Non vi poteva essere quindi nessun disegno a lunga scadenza. Quando il professor Maggiotta sostiene che questa non era un'ipotesi di Getta, ma era largamente diffusa nel movimento cattolico, era riportato alla stampa, bastava leggere la stampa, ma è proprio questo il dato storicamente rilevante che fa della tesi di Scopo una tesi corretta, secondo me. Praticamente, in effetti, il movimento cattolico, perché la storia non è una costruzione, è una costruzione che nasce dal fatto che le pressioni in quel momento del movimento cattolico, quella precisa contingenza, erano fortissime verso un'ipotesi di questo tipo, se la stampa cattolica, al di là di questa interpretazione di Getta, appunto, erano di questo tipo. Evidentemente, in fondo, e qui ne emerge la leadership De Gasperiano nel suo vero senso, cioè la capacità di De Gasperi di non lasciarsi condizionare dal Vaticano, che non potevano essere interprete del Vaticano delle spinte che venivano dal movimento cattolico così largamente diffuso nel paese. Evidentemente questa spinta da parte del Vaticano di condizionamento c'era. E quindi scopre in un certo senso, intuisce, anche se lui si basa su lavori frammentari poco documentati, scarsamente documentati, la sua tesi politica è giusta, cioè il Vaticano aveva, stante questa stessa descrizione che lei fa del movimento cattolico italiano, là, evidentemente essendo un momento ricettivo di questa realtà cattolica, la volontà e la forza di incidere nella storia in quel momento in un senso invece che in un altro, sappiamo che la storia è in un certo modo. Cioè che De Gasperi, ma perché? Perché effettivamente De Gasperi, da uomo formatosi, e qui mi spiace che non si sia studiato in particolare De Gasperi nel periodo popolare, e non ci sia stata una relazione su De Gasperi nel Trentino nel periodo popolare, che molto di più avrebbe fatto cogliere questa capacità di statista in De Gasperi. Nasceva dalla sua formazione culturale nell'impero austro-ungarico. Cioè, questo dimostra ancora più la leadership, ma non nel senso che il condizionamento del Vaticano non esisteva. Esisteva come? Le Gasperi ha saputo con un uomo di Dio, appunto. Ma in questo la tesi di Scopolo, ripeto, secondo me è corretta. Anche se si basa su, diciamo così, documenti documentari e su errori di documentazione. Ich weiß nicht ihren Namen. Kalimi. Hat gegen Hermann Jotta Broglio gesagt, dass Hermann Jotta eigentlich ungefähr an das anknüpft, was am vorigen Montag auch Herr Moscati gesagt habe, und das sei in einem gewissen Sinne richtig. Aber er hat dann in einem zweiten Punkt zwar eingeräumt, dass bei Scopola hier und da im Einzelnen sachliche, faktische Fehler seien. Aber er sagt auch die andere Form, das, was heute in dem Referat von heute Nachmittag gemacht worden ist, auch das ist ja eine Auswahl von Dokumenten und eine Interpretation von Dokumenten. Und dann meint er mit Gründen, die ich jetzt im Einzelnen nicht bringen will, weil man dann noch viel mehr über die bisherige Diskussion sagen müsste, dass unter diesem Aspekt die Grundthese Scopolas doch in einem gewissen Sinne haltbar sei. Herr Mazzotta Broglio wird darauf antworten, ich kann dann noch Einzelheiten bringen. Sind noch weitere? Prego. Staukopf, ich wollte mal kurz fragen, ich habe das heute nicht gehört, aber das ist eigentlich der Grund, warum ich hierher gekommen bin. Die Päpste haben auch, besonders die von 12 Jahren, von seiner Weihnachtsfeier 41, 42. Ja. 44 in zwei Ansprachen eine vollkommene Konzeption für die neue Gestaltung der Gesellschaft nach dem Weltkrieg herausgearbeitet. Diese Konzeption habe ich bei Herrn Dr. Schellig gefunden, aber ich habe sie nicht bei den Italienern gefunden. Ja. Ich frage mich, hat die Kurie oder hat De Gasperi überhaupt keine Notiz für diese Sachen genommen? Ja. Es würde mich nämlich sehr interessieren, unter einem Gesichtspunkt heraus, weil sich nach dem Ersten Weltkrieg ganz klar ein Zusammengehen, das schon von Herrn Professor angedeutet worden ist, ein Zusammengehen zwischen Liberalismus und katholischer politischer Bewegung angebahnt hat, der nun so, erlaube ich mich hinzuzufügen, dazu geführt hat, dass heute praktisch die katholische Kirche zerstört ist. Möchte ich dazu doch einige, bin ich eigentlich hierher gekommen, um einige Aufklärungen über diesen Prozess zu erfahren, zumal wir auf Narita, nachdem hier auch Bezug genommen worden ist, schon im Namen der Freiheit gesprochen hat, aber niemals für eine Zusammengehen oder für eine Synkrese zwischen Liberalismus und Katholizismus oder katholischer Weltanschauung eingetreten ist. Das ist die Frage. Ich glaube, auch das wäre mir lieb. Ich bin schon seit Tagen, wenn Sie es gleich italienisch. Dunque, stavo dicendo che non ho notato negli interventi italiani di Roma che un riferimento alle encicliche, cioè piuttosto alle allocuzione natalizie. Sì, ai discorsi natalizi, il Pio XII del 41. 42 e ai due discorsi del 44, nei quali il Pio XII ha tracciato il riordinamento della società visto da un punto di vista cattolico dopo la seconda guerra mondiale. Potrei ricordare una cosa che non ho ricordato in tedesco, poi il netto distacco da questo, dallo sviluppo di, fatto dallo stesso Pio XII nel 53 e nel 54, proprio nell'anno in cui De Gasperi vola fuori dalla politica. Dunque, non ho notato un riferimento a questo, a parte parte nella relazione con il concetto del scelto. Anche per quanto riguarda Maritain, non si può parlare di una unione o di un sincretismo tra liberalismo e cattolicesimo che Maritain voleva fare nel suo libro Umanesimo Integrale, ma bensì il pieno recupero dell'umanesimo in senso tonistico cattolico. Sono ancora altre? Scusi, volevo precisare, se posso, questo concetto, che anche il collega Monti con me. Ciò che fa maturare la cultura comunitaria dei Gastri, questa è la rilettura di una particolare opera del Maritain. Attraverso lui Maritain si muove in una chiave di definizione di un nuovo concetto di libertà che non è quello del liberale. Quello che io voglio dire, quello su cui insisto, è che questo tipo di opposizione attorno allo Stato totalitario, in nome di ideali di libertà, riconducibile all'esperienza cristiana, una civiltà cristiana, trovano già in alcuni pensatori liberali una loro chiara ed evidente approfondimento. Io ho citato Ortega, potrei citare alcuni, Unamuno, dico, e lo stesso Croce, il che non significa né che De Gasperi sia un liberale nel senso della parola, né ovviamente, giustamente, che Maritain sia un cattolico liberale. Voglio dire semplicemente che la critica che si muove all'esperienza politica degli anni 30, agli stati totalitari, è una critica che anche De Gasperi fa all'insegna di un'area di ricerca che è già percorsa da intellettuali liberali. Prego. C'è nessun altro? Posso? Ah, Alberto. Un'altra? Una domanda. Alberto, sì, un ultimo. Vorrei chiedere, nell'ambito di questa relazione, che mi pare sostanzialmente convincente in alcune sue conclusioni, cioè quello di sottolineare maggiormente lo sforzo di De Gasperi nel appropriarsi della politica vaticana in un certo senso. E vorrei chiedere un chiarimento però sui rapporti tra la Santa Sede e il cristiano sociale e in genere i cattolici comunisti, il cristiano sociale, tutta la sinistra che poi è stata poi annullata, eliminata dal partito politico del mondo cattolico in Italia. A me pare che tutti i documenti che Margiotta ha portato a sostegno di una tesi che in Vaticano si guardasse a una molteplicità degli esiti possibili di partito cattolico siano abbastanza interessanti nell'indicare il timore di impegnarsi in un partito, e già c'era stata l'esperienza del Partito Popolare, e poi mi pare però che non lasciano qualche dubbio su questa apertura sinistra degli ambienti della Curia Vaticana. Cioè mi sembra che, adesso senza entrare in alcuni particolari, no, il chi di Ossicini, io rimando dell'opinione che quel chi non sia De Gasperi, nonostante l'affermazione dei testimoni, perché così come ho alcuni dubbi sulla importanza della testimonianza di Andreotti in quel libro, cioè senza entrare però in alcuni particolari, mi sembra che tutto sommato però in Vaticano, anche dalle testimonianze che tu hai portato, ci sia però una presenza di destra molto forte, cioè una che poi si estrinseca, no, in testimonianze di giornali ispirati a, non soltanto a monsignori della Curia, ma ispirati a personaggi importanti di quelli che erano stati anche i religiosi del periodo del fascismo. Ecco, quindi io mi domando se tu non puoi meglio precisare questa che può essere un'impressione che io ho avuto, e forse qualche altro poi ho avuto, di un'eccessiva valutazione delle aperture a sinistra della Curia Vaticana. Grazie. Herr Monticone fragt, er möchte etwas genauer wissen und genauer geklärt haben, wie weit ging und wie war es eigentlich mit... Può a confermare quello che dicevo io, cioè della reazione, cioè il fatto che Paronetto riesca a portare delle persone che avevano una sensibilità delle aperture di tipo economico-sociale come il gruppo Vanoni, e significa che Paronetto aveva una sensibilità per questi problemi e che quindi è chiara la sua sofferenza al momento della, diciamo, in cui vengono soffocati i cattolici comunisti. E il discorso della difficoltà dei rapporti nord-sud, secondo me non solo è fondatissimo, ma io devo ancora capire, e devo dire che in questo il libro di Scoppola non mi ha aiutato molto, il rapporto fra il programma di Milano della DC e le idee ricostruttive di De Gasperi, perché non è che siano proprio uguali, cioè lì è tutto un discorso da fare che purtroppo mi dicono che Fonsi stia lavorando su questo tema da parecchio, io gli ho telefonato, ci abbiamo anche parlato, ho capito che lui sta lavorando, però ancora purtroppo, ecco, io credo che lì, perché fino a che punto, sì, nel gruppo che fa le idee ricostruttive, che butta giù il programma di Milano, se non ricordo male c'è anche Augusto De Gasperi fra quelli, il quale certamente era in contatto col fratello. Proprio per questo, però la sua presenza nel gruppo che fa il programma di Milano può anche significare, lo ignoro, che lui trasmettesse, cioè che anche nel programma di Milano ci fossero le zampe di De Gasperi, non lo so. Cioè, dico, lì veramente è un capitolo tutto da scrivere, spero che qualcuno che si occupa di queste cose lo scriverà. Problema di Luca. E il problema di Luca è un problema molto grosso. Io sono perfettamente d'accordo con te che lui non solo è cattolico aperto al fascismo, ma era uno dei maggiori collaboratori di Frontespizio e via dicendo. Critica fascista, amico di Bottai, eccetera, eccetera. Che poi lui arriva al nord con la macchina americana, sai... Dicevo che le vie dei servizi segreti americani arrivano qua, sono quasi infinite quanto quelle del Signore. Se tu pensi che appunto, insomma, da quello che risulta da questo documento pubblicato e non smentito da Andreotti, fra gli informatori del servizio segreto americano c'era anche Andreotti, qua non l'ha smentito fino adesso, quindi presumo che questo documento pubblicato sia vero e che quindi fra gli informatori dell'OSS ci fosse anche lui. Quindi magari anche De Luca era una spia americana. Va a sapere, chi lo sa. Comunque, a prescindere da questo qui, certamente però De Luca sì, è un uomo che ha avuto le sue simpatie fasciste, però come tu giustamente dici, è l'uomo a cui Giovanni XXIII affida la cosa. Oh, bisognerebbe dimostrare che Giovanni XXIII era un uomo di sinistra, adesso io questi termini per la Chiesa mi ripugna usarli, perché dire che uno, insomma, veramente, però adesso tanto per capirci. Giovanni XXIII chi è? Giovanni XXIII è uno che però ha studiato al seminario romano, nello stesso gruppo, nelle stesse cose in cui hanno studiato De Luca ai suoi tempi Buonaiuti. Cioè c'è in Curia una mafia del seminario romano che dura ancora, c'è una mafia del seminario romano che è un filo rosso che va avanti dagli inizi del secolo e che uno si attarga, insomma, Monsignor Benigni, che è quello che poi diventa il persecutore, è quello che fa lezione a tutti questi qui, è quello che è in segreteria di Stato con Gaspari e presso il quale Pascelli fra le prime armi. Cioè ci sono degli stranissimi genealogie curiali, che adesso qui non c'ho il tempo di approfondire, che secondo me vanno tutte verificate, e a queste genealogie curiali è apparentato De Luca, il quale in fondo, e qui quello che tu mi dici, certamente De Luca con Montini non si odoravano poco. Io ho l'impressione che comunque, sai, chi ha conosciuto De Luca, io Montini non l'ho conosciuto, però l'ho visto da Papa, devo dire, mi dispiace perché tu, a me non era molto simpatico, devo dire, Montini. E quindi devo dire che credo che non fosse simpatico neppure a De Luca, questi romani, Montini era troppo lontano, questo cattolicesimo un po' pagano dei romani, no? Così molto, molto curiale, così. No, infatti, poverino, è stato un Papa che ha sofferto perché era la sua distanza, cioè era un uomo di Curia al 100%, ma di una Curia diversa, in fondo lui era un rimasuglio della Curia di Ratti, insomma il discorso è molto, molto complicato. Però certamente De Luca è un personaggio chiave in tutto questo, perché come prima, certamente dopo fa anche il Trade Union con tutto un altro, un certo mondo. Oh, l'articolo 7 della Costituzione, ecco, tu, quello che tu mi dici però mi conferma una cosa. Io sono sempre stato convinto che Dossetti l'ha fatto per dovere di servizio, quello che ha fatto la Costituente. Cioè Dossetti era uomo di troppa sapienza giuridica e di troppa finezza per credere nelle cose che diceva la Costituente. Infatti io sono convinto che il padre dell'articolo 7 non è lui, come la maggior parte degli autori dicono. Cioè io ho l'impressione che, ecco, è per questo che mi domando, però Gonella è uno che sa molte cose, mi ha detto che lui scriverà un libro in cui dirà, quindi non dice niente finché non ha scritto questo libro, ma molti di questi dicono queste cose. Certamente Gonella è uno di quelli che sa come nasce questa, perché guardate che c'è una bella distanza fra la Santa Sede che non vuol perdere, diciamo, la situazione dei patti lateranensi e l'articolo 7 che costituzionalizza un accordo fatto dal fascismo. Cioè la Costituzione repubblicana ingloba in sé una delle cose, diciamo, peggiori fatte dal regime. C'è una bella differenza, cioè fra la preoccupazione della Santa Sede di non perdere, della non abrogazione del concordato e il richiamo costituzionale che per 30 anni ha consentito alla magistratura italiana di dire che i patti lateranensi addirittura avevano la forza di modificare la Costituzione. Ma mi scusa, c'è una interessante analogia nel parlamentare Scharrer della Costituzione, certo, tedesca, perché a Kronberg, nella delegazione vaticana, sì, del dopoguerra, furono due concezioni. Una concezione di non parlare mai del Reichskonkordat e l'altra di dover includere il Reichskonkordat nella Costituzione, in Grundgesetz. E nel primo abbozzo il Reichskonkordat fu incluso nel Grundgesetz. Poi i socialdemocratici e i liberali non volevano, perché dicevano il Reichskonkordat fu fatto perché la curia romana voleva fare con Hitler uno stato clerico-fascista. Mi sembra che è stata una interpretazione storicamente falsa, ma insomma, fu la politicamente storia. Politicamente aveva la sua efficacia. Aveva la sua efficacia perché là nel trattative conclusive fra Adenauer e Carlo Schmitt sui punti della Costituzione, Adenauer lasciava cadere la inclusione del Reichskonkordat nella Costituzione. Poi i vescovi venivano a Pützchen, ai carmelitesi di Pützchen, scrivevano una lettera a Adenauer con tutto dolore eccetera eccetera, e Adenauer rispose: sì, ma è impossibile di fare una Costituzione, abbiamo bisogno noi democristiani di supposizione dai socialdemocratici, non possiamo ricevere, adesso lasciamo stare. E poi gli vescovi erano contenti, non erano malcontenti, voglio dire, non erano malcontenti e lasciavano cadere correre le cose. Allora, è molto importante. Non fu la delegazione vaticana che si interessava più, perché il Vaticano pensava: se noi parliamo troppo del Reichskonkordat, la possibilità che ci levano anche quello, sì, tacciamo e lasciamo stare e acquistare tempo, poi vedremo. Mi sembra che sia, no, anche, ci sono, fu nel 48-49, certo, dopo l'esperienza della Costituzione italiana. Certo. Ma no, quello che è molto interessante in questo che dice il professor Repkin è in fondo il diverso atteggiamento di Adenauer e De Gasperi, sì, di fronte a una stessa, sì, certo, cosa, certo, no? E infatti, infatti quello che io mi domando è se questa idea della costituzionalizzazione nasce in Vaticano o nasce in Casa Democristiana? Sì. È qui il punto che vorrei capire e che purtroppo, ecco, Gonella probabilmente è una persona, ecco, è di qui che... Io aggiungo che ho detto sopra con Gesetz sta nel suo libro. Ah, dicevo, quello che tu dicevi, parlare con i sopravvissuti, sì, con qualcuno si riesce, però molti, hai capito, ti fanno, io con Gonella ho tentato più volte, ma non sono pochissimi quelli che Ossicini mi ha assicurato che la prossima volta che ci saremo visti, che accadrà il mese di ottobre, mi farà vedere delle lettere personali di Pio XII a lui di quel periodo lì. Ora, se è vero che lui ce l'ha e che Pio XII scriveva al leader dei cattolici comunisti, caro Alberto, hai capito? Allora, io non lo so, lui lo dice, io non l'ho vista, però dico, il fatto, cioè, lui e gli altri sostengono di aver avuto, insomma, sostengono che la loro testa è caduta per volere non Vaticano. Però adesso poi ci torno quando arriviamo lì. Cari, io la ringrazio molto di quello che lei diceva. Io però ho l'impressione di due cose. Uno, che forse lei non abbia ben presente qual è la posizione di Scopola, che adesso le rileggo. E due, che io quello che ho voluto dire è che in Vaticano sono presenti in quel periodo tutta una serie di posizioni, fra cui anche quella. Mentre invece Scoppola dice che la posizione del Vaticano è quella. C'è una bella differenza. Ma le dirò di più, forse lei non ha fatto attenzione a questo documento americano che io ho citato, in cui l'incaricato per gli affari sociali dell'ambasciata americana, che era un grosso personaggio, era il numero due dell'ambasciata, scrive al Dipartimento di Stato che la Malfa gli ha detto che nel 1943 la richiesta del continuismo, cioè dell'operazione Getta, gliela fanno De Gasperi e il Vaticano. Io non lo so, questo qui finora non me l'ha smentito nessuno, è un libro che è uscito vari anni fa. De Gasperi e il Vaticano avevano chiesto a lui e ai democratici di unirsi alla monarchia e ai fascisti antimussoliniani, tipo Dino Grandi e Bottai, per formare un governo di coalizione. Questo per evidenziare che c'è un abisso fondamentale fra De Gasperi e la Malfa. Insomma, un qualche, io non lo so, non è che ci creda mai molto ai documenti diplomatici fino in fondo, però un qualcosina ci sarà. Cioè, secondo questo signore, questo Adams, la Malfa avrebbe detto che all'interno dell'operazione JET, dell'operazione continuismo salazariana, quello che vuole, la continuità, c'era mischiato anche De Gasperi. Probabilmente non è vero, non lo so, però un qualche cosina ci dovrebbe essere. Bisognerebbe poi dimostrare una cosa, che la continuità non sia proprio De Gasperi. Cioè, voi mi dovreste dimostrare che l'Italia di De Gasperi non è la continuità dell'Italia fascista. Ha capito? Ecco, mi dovesse dimostrare, è qui il punto, per quello che mi riguarda, per quello che io, che è il mio mestiere, io non sono uno storico, io sono un professore di diritto ecclesiastico, mi occupo di diritto ecclesiastico e di politica ecclesiastica. Per quello che è il mio campo, De Gasperi è peggio di Mussolini, perché Mussolini non si è mai sognato di mettere nella Costituzione i vattiali. Io le rispondo con una battuta, cioè non si capirebbe la democrazia progressiva di Togliatti se il periodo si è sentito. Cioè dico, dal mio punto di vista, il continuismo di De Gasperi, io non lo so quello che avrebbe fatto, non lo so, Federzoni, però certamente De Gasperi fa, cioè De Gasperi è la continuazione, De Gasperi è quello che manda a dire nella lettera al Papa che citavo stamattina, che vuole addirittura fare una legge apposta sulla stampa codificando con una legge democratica il codice Rocco, dove se uno bestemmia gli tagliano la mano a momenti, se bestemmia però le divinità cattoliche, perché se bestemmia Calvino per carità va benissimo. E sa, se questo qui poi è la democrazia e non è la continuità, qui però entriamo in un discorso politico che non vorrei fare. Invece io vorrei un momento dire... Un discorso storico anche, se mi permetti, perché è un secondo soltanto. Scatenato. Un po' con la pelle, va bene, vero, così mi brucia. Quando sento, va bene, vero, questi giudizi generali, e mi pare di averlo osservato, non so, alcuni giorni fa, a proposito di qualche cosa d'altro, ma che cosa vuol dire che in sostanza De Gasperi e io ho paura di questi giudizi e proprio ho timore, specialmente quando sono gli studiosi e gli storici, perché bisogna ad un dato momento scendere nella specificazione. Sì. Lo vediamo da un punto di vista sì. della Costituzione, lo vediamo dal punto di vista del diritto, da un punto di vista delle istituzioni o via dicendo. Perché non spetta a me liberale fare la difesa di De Gasperi, evidentemente. Questo deve essere chiaro, guardandolo fin dall'inizio. Ma però, insomma, questi giudizi mi lasciano veramente estremamente perplesso, estremamente perplesso. Sono giudizi di una genericità tale per i quali si può dire tanto sì in blocco quanto si può dire no nel modo più assoluto. Senti, sì, per non sapere né leggere né scrivere, tu mi devi dimostrare quali leggi fasciste De Gasperi ha abrogato. Io aspetto. Ha modificato o abrogato? No, io aspetto qui. No, non scendiamo nel corpo, scendiamo nel particolare. Trovi una legge fascista che De Gasperi... Ti pare poco la Costituzione? Aspetta un momento. La Costituzione, la Democrazia Cristiana l'ha congelata per 25 anni. Finché non si... cominciamo la Costituzione, perché la Costituzione è stata disapplicata per 25 anni. Tu devi leggere la... Scusa. Scusa, chi è che sostiene al momento del referendum? Chi è che sostiene la continuità al momento del referendum? È lui. Scusi. David, vielleicht gerade für die Deutschen. Ma questo non c'entra niente, poi scusa, questo lo discutiamo poi a parte. Gerade sagen, worum es jetzt geht. Herr Gallini. Che secondo me, a mio avviso, poi parlo sempre per quello che mi riguarda, al di fuori di non so niente, al di fuori del diritto ecclesiastico e della politica ecclesiastica, per il resto non ne so niente e non mi interessa. Voglio dirti che secondo me il regime fascista fu la continuità di quello precedente e che quindi non è cambiato niente. Cioè io non certo c'è una continuità, è la continuità della classe al potere, ma parliamoci chiaro, ma no, ma questo non è la storia sociale, ma scusa, è la storia, è tutto, non nulla lascia da niente, ma non c'è. Scusa un momento, tu mi hai da dimostrare che la magistratura italiana ha una giurisprudenza diversa su certi problemi nel 1914, 1934, 1954. Ma comunque adesso chiudiamo questa parentesi, perché se no non c'entra niente con la continuità, non finiamo più. No, io vorrei tornare un momento al nostro Galì, che vedo lì. Dunque no, io forse non ci siamo capiti. Cioè, Scopra dice delle cose molto precise. Cito, la DC non nacque nel 1943 come partito della Chiesa. La Santa Sede sembra sia rimasta del tutto estranea al rilancio politico di De Gasperi. Questo, poi, allora avanti. Idea largamente diffusa e prevalente negli ambienti vaticani alla vigilia e subito dopo il 25 luglio era piuttosto quella di una sorta di continuità di un regime autoritario senza più Mussolini, che avrebbe avuto nel mondo cattolico e nelle sue organizzazioni il punto di forza. L'idea di una successione cattolica al regime è durata lentamente negli anni, eccetera. Ora, quello che io ti dico, io non ti dico che non esistessero in Vaticano queste posizioni, ma quello che io ritengo è che non si possono attribuire al Vaticano le posizioni di una parte. E qui il punto. Quindi, che certamente ci fosse una parte che portava avanti il discorso, diciamo, l'operazione Jeddah, tanto per capirci, nessuno te lo nega, ma che però accanto a questo ci fossero il Vaticano non era così sciocco da puntare su questa operazione. Cioè, veramente, io adesso per carità credo di essere uno dei pochi a non poter essere tacciato di clericalismo, però dico che noi facciamo il Vaticano così sciocco da credere che l'operazione della successione al fascismo fosse un'operazione fattibile e concreta, con il rapporto, con tutto quello che esce da questi documenti di Myron Taylor, in cui il Vaticano è dal 37 che si comincia a sganciare e che prevede, cioè a me, quindi io non è che io ti ho detto, io quello che contesto è che quella posizione venga assunta come posizione emblematica del Vaticano, della Santa Sede, della Curia. Quindi, certo, io tanto è vero che io a conforto che esistesse una posizione come quella di Jeddah, ti ho detto che addirittura io ho voluto smitizzare questa cosa di questa lettera a Badoglio, che sembrava chissà che, quando era una cosa nota. Major D'Abroglio hat nochmal mit seinem ganzen Temperament betont, dass es ihm gar nicht darum geht, zu bezweifeln, dass auch die von Herrn Scopolo herausgearbeitete, von Herrn Calini wieder aufgegriffene Position im Vatikan vorhanden gewesen sei, aber dass das nicht die vatikanische Position gewesen sei, dass die vatikanische Politik wesentlich vorsichtiger gewesen sei und nach wesentlich mehr Seiten hin offen noch nicht entschieden. Dass der Vatikan also vielmehr eine abwartende als eine Initiative Politik betrieben habe, wobei er dann mehr in Parenthese sagt, man soll sich den Vatikan doch auch nicht so simpel vorstellen, dass in einer Situation, in der man wirklich noch nicht weiß, wohin die Fahrt geht, bereits ganz genau die Marschrichtungszahl bestimmt, in der in Zukunft die Kirche oder die katholische Partei oder die Katholiken oder die Organisationen marschieren sollen. Ich darf vielleicht noch aus seiner Antwort auf Herrn Bendicholi, das konnte ich eben noch nicht übersetzen, sagen, dass er noch einmal zu den Posizione della Chiesa che vuole autorizzare a costituire sotto la loro diretta responsabilità formazioni politiche, cioè al plurale. Poi